Non dubito che i nostri maggiori, i miei genitori, i vostri nonni, le generazioni che ebbero a vivere l'esperienza dell'ultima guerra, abbiano avuto tutti i motivi del mondo per essere grati agli Stati Uniti d'America, che li avevano, come si dice oggi, liberati dal nazifascismo. Magari sapevano che a liberarli gli americani non erano venuti per pura generosità o per esclusiva dedizione agli ideali della democrazia, nel senso che il nostro paese rappresentava, dopo il collasso del fascismo, solo uno dei tanti fronti di guerra tra gli alleati e la Germania, e avevano imparato sulla propria pelle che nella condotta di guerra i loro interessi, interessi degli alleati, prevalevano ovviamente sui nostri. Non si spiegherebbe altrimenti la deliberata lentezza con cui dal luglio del 43 in poi i loro eserciti risalivano la penisola. Ma sapevano anche che senza in nulla voler sminuire l'apporto della resistenza, l'intervento di quegli eserciti era stato decisivo. Per la maggior parte degli italiani, in quei due lunghissimi anni che seguivano lo sbarco in Sicilia, la speranza nell'arrivo dei liberatori era stata in un certo senso uno dei pochi elementi che aiutavano a tirare avanti. Di tutto questo, ripeto, non ho motivi di dubitare. Però non capisco per quale motivo agli americani dovrei essere grato io. Il mondo cambia in fretta, quelle vicende appartengono al passato, gli interessi e i valori dei nuovi protagonisti della politica planetaria sono fatalmente diversi da quelli di allora. Vi invito a fraternizzare con Bush in nome di quanto ha fatto Roosevelt, non può che suonare come minimo ingenuo. In quel tanto di benessere, di libertà di cui bene o male godiamo, ce lo siamo costruiti noi con il lavoro e le lotte di questi decenni. Sarebbe ingiusto ad attribuire ad altri i molteplici fallimenti della nostra società, ma non si vede perché ad altri si debba essere grati dei suoi sviluppi positivi. Se invece l'invito fosse quello a storicizzare, a considerare le nostre faccende di oggi in un quadro e in una prospettiva più ampli, in cui le vicende di quegli anni lontani conservino comunque un loro significato e rappresentino una lezione di cui tutti possiamo trarre frutto, allora il problema diventa molto più complicato di quanto si pensi. La storia è una cosa seria. Non accetta storielle edificanti come quella del potente amico venuto da oltreoceano a portare la democrazia. Tiene conto delle motivazioni e degli obiettivi di tutte le parti, in causa, che non coincidono appunto con quelle in causa oggi. Destinatari della nostra gratitudine, così, non dovrebbero essere soltanto gli americani. Dovrebbero esservi compresi tutti coloro che, per un motivo o per l'altro, volenti o nolenti, hanno partecipato a quei fatti, compresi quei polacchi che gli inglesi mandavano con false promesse a farsi massacrare sotto Monte Cassino, o quei neozelandesi che vennero dall'altra parte del mondo a morire sotto quelle stesse mura, e persino quei marocchini di cui per decenni si sono raccontate le peggio cose, ma in fondo erano stati trascinati in una guerra in cui proprio non c'entravano nulla, e in quella guerra non fecero nulla che in tutte le altre guerre non si fosse già abbondantemente fatto. Ma soprattutto non si capisce perché gli italiani non dovrebbero essere grati al governo e ai popoli dell'Unione Sovietica, che tennero impegnate sul fronte orientale non so quante decine di divisioni tedesche, contribuendo così in maniera decisiva al risultato finale. In fondo, la lotta al fascismo, per quello che vale, sul piano militare come su quello politico, non fu condotta esattamente in nome delle posizioni ideologiche che oggi caratterizzano il Presidente degli Stati Uniti e il capo del governo italiano. La storia si può ricostruire con qualche cautela, ma si può anche facilmente falsificare. Il balletto romano di Bush e Berlusconi si è fondato in gran parte su una falsificazione, in nome di un parallelismo che è stato possibile tracciare solo grazie a una versione caricaturale degli eventi e a una drastica riduzione del numero dei partecipanti. I due non potevano fare altro, naturalmente, visto che nessuno di loro condivide o semplicemente rispetta gli ideali di quei giorni. Ma basta questo a far capire quanto ci si possa fidare di loro. Nel senso che non è possibile accettare lezioni di democrazia da chi ha così poco rispetto per la verità.